Il tema di quest'anno è come te. Bene, sono alla terza settimana in questo percorso con voi e per la terza settimana consecutiva dovete subirmi, dovete sentire me predicare. Mi dispiace per voi perché la mia voce è insopportabile, è il primo a non piacere la propria voce, sono proprio io, però il Signore vuole che noi ci orientiamo come Chiesa e che facciamo questo percorso in unità, perché la Chiesa è chiamata ad essere unita nel percorso e negli scopi e nei propositi che Dio ha per essa. E Dio ha uno scopo per la nostra comunità, per la nostra Chiesa, e noi viviamo quest'anno il privilegio di una chiamata che da sempre abbiamo avuto e sempre avremo, non solo vale quindi per quest'anno, ma in quest'anno vogliamo considerare con una particolare attenzione, e cioè la chiamata, il privilegio di essere più simili a Cristo, per assomigliargli di più in ogni cosa. Se ti stai domandando in cosa posso somigliare a Cristo, beh, l'elenco è lungo e vale per ogni ambito e ogni aspetto della tua vita. Quindi una premessa importante io la voglio fare, che riassume anche quanto ci siamo detti nelle scorse settimane. La premessa è questa: se sei nato di nuovo, essere rinati è un fondamento. Se hai scelto di lasciare il tuo passato e afferrare il nuovo che Cristo ti ha dato, se vivi in relazione con Gesù, questo è un fondamento importante, se vivi in relazione con Gesù e sei riconoscente a Lui della sua bontà e della manifestazione gloriosa del suo amore attraverso la sua grazia che ti ha salvato, questa è la premessa, allora puoi afferrare il privilegio di somigliarli. Perché somigliare a Cristo senza questa premessa può essere moralismo, può essere religiosità, può essere prendere un bel modello, quale è quello di Cristo, però senza aver avuto la trasformazione salvifica, che è la premessa necessaria e fondamentale per vivere un processo di santificazione. Noi non viviamo un processo di santificazione e di assomigliare sempre più a Cristo per ottenere salvezza, ma noi, perché siamo stati salvati e siamo rinati, ora, avendo una nuova identità in Cristo, vogliamo assomigliargli in ogni cosa. In cosa? In come parliamo. In cos'altro? In come ci muoviamo. In che cosa proviamo, in che cosa ascoltiamo, in come ascoltiamo, in come serviamo, in come amiamo, in come ci relazioniamo, in come scegliamo, in cosa scegliamo, in come amministriamo quello che abbiamo. E l'elenco va avanti e abbiamo un anno intero per considerare tutti gli aspetti dell'essere simili a Cristo. C'è già qualche predicatore che, preparandosi, no, per le domeniche nelle quali lui predicherà, già mi ha anticipato: che dici, prendo questo aspetto della vita di Cristo? Ed era entusiasta. E tutti gli aspetti della vita di Cristo sono entusiasmanti, vero? Qualsiasi aspetto della vita di Cristo è entusiasmante. Ora, la mia preghiera è che tu possa aver fatto tuo il desiderio di assomigliare a Cristo, perché sicuramente assomigliare a Cristo è la volontà di Dio per noi. Sicuramente, lo dico quale pastore anche di questa comunità, il desiderio di assomigliare a Cristo è la volontà della Chiesa Pieno Vangelo di Modugno. Amen, grazie per questo amen. C'è qualcun altro che può dire amen? La volontà della Chiesa Pieno Vangelo di Modugno è assomigliare a Cristo. La mia domanda però è: assomigliare a Cristo è anche il tuo personale desiderio? È diventato il tuo personale scopo e obiettivo per quest'anno, per la tua vita? Beh, se queste due scorse domeniche non sono bastate, io devo giocarmi tutto in questa domenica qui. E il mio incoraggiamento deve essere in questa domenica che tutti possano afferrare il desiderio. Quale privilegio, perché sì, è un dovere, è proprio un dovere, è un comandamento. Dio dice: siate santi come io sono santo. Dio sta dicendo: rappresentatemi bene, e per rappresentarmi bene dovete fare quello che io ho fatto, dire quello che io ho detto, andare dove io sono andato, atteggiarvi come io mi sono atteggiato, essere quello che io ero su questa terra. Però non è un comandamento al quale possiamo rispondere come se fosse un'imposizione dall'alto. Per questo Pietro dice: se avete gustato che Dio è buono, è un privilegio. È un privilegio in quelle cose che tu già riconosci nella tua vita che non vanno bene e vanno cambiate, hai bisogno che siano trasformate. Come diceva Martina questa mattina, bellissimo, il passo del vasaio: noi siamo quell'argilla che deve essere modellata dal vasaio per essere qualcosa di meraviglioso, perché lui non fa brutture, lui non ti ha creato e non ti ha chiamato a nuova vita per rendere la tua vita miserabile, ma gloriosa. E quindi deve esserci una forma di entusiasmo in noi per quegli aspetti della nostra vita che già sappiamo che devono essere cambiati, ma anche per quegli aspetti che gelosamente vogliamo trattenere e a cui non vogliamo rinunciare, e che è faticoso, è duro, è doloroso dover lasciare che siano modellati da Dio. In ogni cosa, la scelta migliore che puoi fare tu per la tua vita e io per la mia vita è lasciarci modellare da Dio. Amen? Ed essere più simili a Lui. Io prego che questo sia il tuo desiderio e che questo desiderio diventa un obiettivo. Perché un conto è desiderarlo, no? Tutti noi possiamo avere buoni desideri, ma un altro conto è renderlo un obiettivo e cominciare a lavorarci su e a pregarci su e a digiunare su e a lottare con tutti i mezzi. E prego che poi questa sia una preghiera. La mia domanda questa settimana nella preparazione è stato: ma noi come chiesa, perché viviamo questa tematica in qualità di chiesa, di comunità, di famiglia, come possiamo aiutarci a raggiungere questo obiettivo? E qui viene fuori un bellissimo concetto biblico dell'essere parte di una comunità locale, di essere parte di una chiesa. Ora, se vuoi capire meglio quali sono i vantaggi, i privilegi e tutte le caratteristiche importanti bibliche che hanno a che fare con la chiesa locale, iscriviti al percorso 2, perché nel percorso 2 ne parliamo abbondantemente. Però io stamattina voglio parlare del fatto che noi viviamo questo tipo di obiettivo insieme, come tanti obiettivi che il Signore ci affida, vanno vissuti in maniera comunitaria. Dio non affida degli scopi e degli obiettivi da vivere isolatamente, individualmente, tu e Dio nella tua stanzetta, punto. No, il Signore ti ha dato il privilegio di far parte di una chiesa per una ragione. E la chiesa che cos'è? È la comunità dei credenti nati di nuovo, che ora, avendo arreso la loro vita a Cristo, scelgono di perseguire in unità, ascoltatemi, in unità la missione che Cristo affida a noi. Lui si è acquistato un popolo che sia zelante in opere buone, l'abbiamo letto la scorsa settimana. Dio si è acquistato noi per essere una famiglia che in unità si aiuta a perseguire gli obiettivi che Lui ci affida. E quindi in cosa consiste questa alleanza? Perché noi di un'alleanza stiamo parlando. In che cosa consiste il nostro reciproco aiuto nel perseguire l'assomigliare a Cristo? Beh, ci sono tanti versi che vorrei prendere in considerazione, però me ne è venuto in mente uno in modo particolare che presenta dei verbi significativi. E questi versi si trovano in Ebrei 10, dal versetto 24 al versetto 25. Per chi ha la lettera degli ebrei mette un particolare accento proprio sulla santificazione e porta il lettore a considerare che la santificazione è un obiettivo che va perseguito e che Dio ama. Il figlio che corregge e lo riprende e lo punisce, c'è scritto anche, al fine proprio di riscattarsi vite che gli appartengano interamente. Quindi Dio ti ama, Dio ti ama gelosia, e la sua gelosia è che tu possa appartenergli completamente. E E il ruolo che Dio affida alla Chiesa lo troviamo in questi versi e non solo in questi versi. Ebrei 10, versetto 24 e 25. Dice così, prestate attenzione ai verbi. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Amore e buone opere. Non c'è modo più sintetico e migliore per descrivere la vita di Gesù. Amore e buone opere. Un amore concreto. Un amore che porta ad un'azione. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dio ha amato te e me e ha sacrificato il figlio. Gesù ha amato e ha manifestato il suo amore dando la sua vita quale sacrificio sulla croce. Quindi amore e buone opere. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Domanda, vedete il giorno avvicinarsi? Cioè, se gli ebrei che sono stati scritti, no, questa lettera è stata scritta 2000 anni fa, incoraggiava i credenti a questa azione, a queste azioni, quanto in misura di quanto loro vedevano il giorno avvicinarsi, beh, loro avevano ragione di essere poco ferventi in questa azione, perché ci sarebbero stati almeno altri 2000 anni davanti. Noi il giorno lo vediamo avvicinarsi molto di più. Siamo sicuramente 2000 anni più vicini. Ed essendo 2000 anni più vicini, queste azioni devono essere per noi qualcosa che viviamo con particolare ardore, con particolare zelo, con particolare responsabilità. Questi versi mi ricordano Elijah quando era piccolo, non so quanti conoscono questa storia, però Elijah poteva aver avuto 4-5 anni, era proprio piccolino, e a fine di un incontro mio nipote, l'abbiamo tutti visto lì intensamente parlare con una sorella della chiesa. Era lì questo pezzettino di uomo che parlava con zelo a questa sorella che era lì attenta, intensa, in una conversazione piuttosto animata. Quindi curiosi, dopo che hanno finito di conversare, credo Gianluca o Carli, sono andati dalla sorella a domandare «Ma di che cosa parlavate? Che cosa ha detto Elijah di tanto importante che eravate presi in questa conversazione?» E la sorella risponde, fa, beh, Elijah mi ha detto, sorella, non ti vedo da alcune settimane in chiesa, come stai? E la sorella si è sentita chiamata in causa per qualcosa che era veramente importante e ha voluto giustificarsi, ed era lì che si giustificava con questo pezzo d'uomo del motivo per il quale non stesse venendo in chiesa e quello che stava attraversando. Insomma, Elijah stava facendo consulenza pastorale. Un pezzettino, avrà sentito parlare me o mio fratello o il nonno, la nonna, in questi termini e ha emulato quel tipo di conversazione. E quel tipo di conversazione, per quanto buffa, è proprio biblica. Dio vuole che noi ci esortiamo, che facciamo attenzione gli uni agli altri. Guardate proprio i verbi, fare attenzione. Noi abbiamo una responsabilità gli uni nei confronti degli altri. Non possiamo essere una folla che si riunisce la domenica e si dimentica per il resto della settimana, per ritrovarci qui quale folla anonima che non sa quello che l'altro vive. Noi siamo una famiglia ed è vero che non possiamo essere in connessione con tutte 300 le persone che fanno parte di questa chiesa, però con quella cerchia di persone che il Signore ti affida, anche la domenica mattina, nel momento in cui il pastore ti chiede di salutare, quella cerchia di persone attorno a te o che potrai incontrare quando uscirai da questo incontro è tua responsabilità. Dio ti affida una responsabilità. Essere parte di una chiesa prevede una responsabilità. Essere parte di una chiesa è un privilegio, perché la Chiesa ha un ruolo nella tua vita. La Chiesa, la comunità dei fratelli e delle sorelle, hanno un ruolo specifico. Il Signore te li ha affidato perché loro hanno un ruolo per te e tu hai un ruolo per loro. La Chiesa ha un ruolo nella tua vita e tu hai un ruolo per la Chiesa. Ti piace? E quindi il mio incoraggiamento questa mattina è considerare questi verbi. Fare attenzione, incitarci, esortarci. Come possiamo essere più simili a Cristo? Con l'esortazione. Come possiamo essere più simili a Cristo? Beh, con quello che stiamo facendo adesso. Inevitabilmente, adesso, aprendo la parola di Dio e considerando gli insegnamenti biblici, tutti ci stiamo dando un'occasione per allinearci alla volontà del Padre e assomigliare di più a Cristo. Però non basta. Non è questo l'unica cosa che dobbiamo vivere come Chiesa. È fondamentale, la predicazione della parola è fondamentale quale obiettivo e missione che la Chiesa persegue. Ma non basta questo, c'è la fratellanza, l'essere parte di questa famiglia e l'essere in comunione, in relazione, è l'incitarci, il fare attenzione, l'esortarci. Sapete che incitarci è un verbo che dal greco significa anche irritarsi, irritarci. Sapete che quando Paolo e Barnaba hanno litigato, vi ricordate quell'episodio in Atti capitolo 24 se non sbaglio, lì leggiamo questo verbo, lì troviamo questo verbo, quindi noi siamo chiamati a irritarci reciprocamente, vi piace? Ci riusciamo bene? C'è chi esclama, voglia! No, però chiaramente in questo contesto significa proprio irritare nel senso buono del termine, cioè essere pungenti, incitare con un certo zelo, una certa veemenza. E allora noi dobbiamo incoraggiarci in questo senso. Non possiamo scadere nell'essere una Chiesa che è nel silenzio più totale ed è omertuosa. Qual era la Chiesa dei Corinti? Vi ricordate? Che c'era peccato nel loro mezzo, uno scandalo nel loro mezzo e nessuno faceva nulla e andavano avanti tutti per la loro strada, nessuno dicendo niente. Quell'omertà non fa bene a nessuno. Ovviamente c'è un altro eccesso al quale non dobbiamo scadere, che è quello di additarci, giudicarci, mormorare, criticare, parlare troppo o fare troppi da maestri. Giacomo denuncia anche questo, non siate molti a fare da maestri, però se puoi fare del bene, lo stesso Giacomo dice questo, e non lo fai, tu pecchi. E quindi anche se è scomodo, è importante che tu inciti il tuo fratello, che lo esorti, che se necessario lo correggi con quel buon amore. Quindi noi ci ritroviamo in due posizioni. La prima, che è quella di essere oggetti dell'attenzione altrui. Vi piace? Noi siamo oggetti dell'attenzione altrui. Altri ci guardano. Parlo della Chiesa, non sto parlando della società. Altri sono attenti alla nostra condotta. E questo non è un male. E io credo che siamo in una società dove c'è troppo offendibilità. Ci si offende per ogni cosa. Nessuno può riprendere nessuno per nessuna ragione. C'è una suscettibilità eccessiva. È vero, siete d'accordo? Non si può dire niente a nessuno. Perché? Perché nessuno deve essere corretto e nessuno deve sentirsi dire cosa fare, cosa fa sbagliato e nessuno deve poter essere urtato nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni, perché le emozioni sono il valore più importante della nostra società, quello che proviamo. È importante che nella Chiesa, se necessario, ci facciamo anche del male, emotivamente parlando, ma al fine del bene. E quindi ci troviamo in una prima posizione, che è quella di essere oggetto dell'attenzione altrui, e quindi accogliere esortazioni, accogliere stimoli, accogliere critiche. Ma capite che Gesù ha fatto questo? Cioè, colui che non era criticabile per nessuna cosa, ha accettato che persone lo criticassero. Gesù, che era perfetto in tutta la sua condotta, ha accettato che qualcuno si rivolgesse a lui additandolo, giudicandolo e non rigettandolo, fulminandolo, accecandolo. Sapete che Dio è onnipotente, Cristo è onnipotente. Pensa a te in quella stessa condizione. Beh, se io fossi stato in quella stessa condizione, con i poteri di Dio, avrei cucito quelle bocche. Ora ti dimostro che non hai ragione neanche di pensare quello che pensi sul mio conto. Avrei detto io, avrei pensato io, avrei agito così al posto di Gesù e avrei cucito quelle labbra. Le persone si sarebbero trovate a non poter più parlare. Gesù le ha fatte parlare. Gesù ha accolto queste ingiurie nei suoi confronti, queste accuse, queste critiche, e ha potuto parlare, ha potuto esporre attraverso quelle critiche degli insegnamenti. Quanta umiltà c'è in Cristo, e ci vuole umiltà per accogliere ogni sorta di parola che ci viene scagliata contro. Ci vuole tanta umiltà. E Cristo è in questa posizione di umiltà perché lui avrebbe potuto chiudersi in un palazzo, no? E avrebbe potuto accerchiarsi delle persone di cui sapeva che non avrebbero detto niente di male sul suo conto. Accerchiarsi di persone che erano perfette nell'ubbidienza, nella sottomissione. Avrebbe potuto venire come re in un palazzo regale circondato da un esercito. Invece era in mezzo alla gente. E non si è lasciato riconoscere da subito. Avrebbe potuto suonare la tromba davanti a lui e annunciare che lui era il Dio incarnato. Invece è stato uno di noi, uno come noi, sebbene Dio incarnato, perfetto. E ha accolto qualsiasi parola per poi controbattere in una maniera sana e amorevole, perché lui era sempre, sempre contraddistinto da amore. Quindi questa è la prima posizione. Io voglio incoraggiarci ad essere correggibili, a non essere facili nell'offenderci, a non essere suscettibili, a non essere permalosi. Amen. Queste non erano caratteristiche di Cristo. Gesù non era correggibile, non era incorreggibile, non era offendibile, non era suscettibile, non era permaloso, era aperto, sebbene sappiamo che fosse stato ed è perfetto. Ci vuole umiltà, e questa è una caratteristica di cui credo che parleremo ampiamente, perché l'umiltà è la caratteristica di Cristo. Ci vuole umiltà nella prima condizione, che è quella di essere oggetto dell'attenzione altrui, ma ascoltatemi bene, ci vuole molta umiltà anche nell'esortare e nel correggere. Ci vuole molta umiltà. Se la correzione, questo ve lo dice ora un padre, e ogni genitore mi potrà dare ragione, se la correzione è facile, esce fuori come un vomito dalla tua bocca, quale sfogo delle tue emozioni, perché sei indignato e perché sei disgustato, che è una delle emozioni che molto spesso viviamo, quella correzione non è una vera correzione, non è fatta con amore, è il tuo sfogo. E non ha effetto, non ha un effetto positivo sul tuo figlio, sulla tua figlia. Perché stai alzando stai alzando la voce, ti stai dimenando, ti stai proponendo con un tono di voce che non è udibile, che non è comprensibile, e stai solo sfogando la tua rabbia. Questa non è correzione amorevole, questa non è esortazione, questa non è l'incitarci al quale il Signore ci invita. Ci vuole umiltà nel correggere bene. Cioè, qual è l'umiltà? Deve essere scomodo. Deve essere scomodo. Dopo il disgusto che provi, l'agitazione, il fatto che hai visto un'azione che non andava svolta in quella maniera all'interno della Chiesa, beh, da parte tua ci deve essere un autocontrollo prima di tutto. E non parlare subito, non sfogare subito quello che vivi. ci vuole preghiera, il vivere in umiltà per chiedere a Dio la grazia di poter intervenire a favore di tuo fratello, di tua sorella. Ma ascoltatemi bene, queste cose che sto dicendo valgono molto nel matrimonio anche. Ci vuole molta umiltà nel riprendere, nel correggere, nel far evidenziare un aspetto negativo che deve essere trasformato. E il bello della coppia, il bello del matrimonio è che ci cambiamo a vicenda, che il ferro affila ferro e si fanno le scintille. Però quanto è sano vivere tutto questo in preghiera, chiedendo a Dio la grazia di poter utilizzare le giuste parole nel giusto contesto, nel giusto momento, al fine del bene dell'altro. L'umiltà è proprio questa virtù, che non vede il proprio tornaconto, ma dà valore all'altro, eleva l'altro, anche a costo di abbassare se stessi. E quindi ci vuole umiltà nel esortare. Però va fatto, se il Signore ti mostra che c'è qualcosa che è degna di esortazione, che va modificata, è per il bene comune, ma fallo non guidato dalle emozioni, ma guidato dallo Spirito Santo. Amen. Perché la guida dello Spirito Santo in preghiera ti permetterà di confrontare quel fratello e quella sorella per conquistarlo, non per dirgli quanto ti fa schifo, perché a quello non siamo chiamati. Vedete, questa è la sana alleanza che il Signore vuole che noi creiamo come Chiesa, come comunità. Un'alleanza per la santità, un'alleanza per assomigliare tutti di più a Cristo. E ci dobbiamo tutti vestire di umiltà, di preghiera e di guida dello Spirito Santo. Detto questo, c'è un altro verso che vorrei leggervi. Un verso che secondo me è molto efficace nell'aiutarci a perseguire l'immagine di Cristo e a vivere una santificazione all'interno della comunità, attraverso la vita comunitaria della Chiesa. E questo verso si trova in Giacomo, al capitolo 5, dal versetto 16. C'è potenza in questa attività, c'è potenza. Oh, così salvi il tuo matrimonio, così salvi le relazioni, così porti virtù, vigore, così metti a tacere Satana. Quando? Quando confessi i tuoi peccati. Questo verso dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Gli uni agli altri. Noi sappiamo che la confessione dei nostri peccati va fatta segretamente a Cristo, perché è l'unico che può perdonare i nostri peccati. Non è un vescovo, un prete o un pastore che può assolverci dai nostri peccati. E la confessione dei nostri peccati ad altri uomini non ci assolve, non copre nessun peccato. Perché quindi Giacomo dice: confessate i vostri peccati gli uni agli altri? Beh, la ragione è perché c'è guarigione attraverso la confessione. Continuiamo a leggere. Pregate gli uni per gli altri, che l'azione successiva, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Questa guarigione è completa. Questa guarigione è una guarigione fisica, è una guarigione emotiva, è una guarigione dell'anima. Il Signore ci sta dando la chiave per vivere una guarigione dell'anima, per portare guarigione nella Chiesa. E sapete come si porta guarigione nella Chiesa? Confessando i peccati. Spogliandoci cioè di quella condizione di chiesa ipocrita che dà a dimostrare che è perfetta l'inde pura la domenica e non accetta mai la sfida di esternare la propria condizione del cuore, le proprie mancanze, le proprie cadute. Ora, non è segreto di nessuno il fatto che siamo tutti peccatori, vero? E commettiamo tutti dei peccati. La cosa meravigliosa che porta guarigione è quando cominciamo a dare voce a questa nostra condizione e ad ammettere. E quando hai rivolto la tua parola in una maniera scontrosa a un tuo fratello o una tua sorella, andare, anche dopo qualche giorno, dopo che ci hai pregato su, e dire: cara sorella, caro fratello, ricordi la conversazione avuta un paio di giorni fa? Io voglio chiederti perdono per i tuoni. Io voglio chiederti perdono perché il mio atteggiamento era animato da emozioni non autocontrollate. Vuoi tu perdonarmi? Quando si fa questo, non solo si ha una liberazione da parte di Dio della propria condizione, ma si porta guarigione nelle relazioni e si allontana il maligno. Si allontana definitivamente il maligno perché si accentua quello che la Chiesa è, cioè una comunità in alleanza dove gli errori si commettono, avvengono, però vengono denunciati perché? Perché non ci appartengono. Perché noi non vogliamo avere nulla a che fare con quelle cose che denunciamo attraverso la confessione. Io amo vivere i ritiri, no? Noi facciamo ritiri tra uomini, tra donne, tra giovani e ci appartiamo più giorni consecutivi per fare che cosa? Per considerare, principalmente quello che facciamo è considerare la gravità del peccato e liberarci di essa, liberarci del peccato. E come lo facciamo? In preghiera, confessando a Dio, ma anche aprendo il cuore gli uni agli altri. Ed è meraviglioso perché ti senti così in unità con il fratello, ti senti in unità con l'altra persona che sta aprendo il suo cuore, perché in fondo sai che non sei meglio di lui, non sei meglio di lei, sei nella stessa condizione, insieme, in un combattimento unico contro il diavolo, contro il peccato, contro il compromesso, contro ogni forma di male. Questo è fare chiesa. Quest'anno vivremo ritiri. A fine febbraio avremo un ritiro degli uomini. Se sarai invitato, vieni, liberati e vivi questo tempo insieme. Se non sarai invitato, fatti invitare. Fatti invitare, vieni, chiedi. E al di là dei ritiri, portiamo quanto accade nei ritiri nella quotidianità di ogni giorno, nei nostri gruppi in casa, nei nostri incontri domenicali, durante la settimana con messaggi, preghiere, incontri, appuntamenti, con il servire insieme. Tanti di noi servono, quasi tutta la Chiesa è coinvolta in un'area di servizio all'interno della comunità. E allora nell'area di servizio hai la possibilità di esternare le tue mancanze e chiedere preghiera affinché si accentui il fatto che siamo alleati per la stessa causa. E non in giudizio l'uno con l'altro, in ipocrisia uno a mascherarsi della condizione dell'altro, perché questo è sbagliato e non piace a Dio. Vi sta piacendo questo messaggio? Sto andando, vedete quanto è maturo questo tema quest'anno? È un tema maturo per credenti maturi che vogliono fare sul serio con Dio. E allora io ti invito ad essere parte della Chiesa per vivere questa doppia condizione meravigliosa. La condizione di poter essere di aiuto ad altri, in umiltà, soccorrere altri, aiutare altri nel loro percorso di santificazione, ma anche essere oggetto di attenzione degli altri per lasciarsi modellare. Io ho avuto nel percorso mio di fede delle occasioni meravigliose con delle amicizie all'interno della Chiesa stupende, dove siamo arrivati a un livello di intimità tale dove incontrandoci e pregandoci dicevamo l'uno all'altro: senti, ma tu vedi qualche difetto in me? Hai mai fatto questa domanda a un fratello o una sorella? Non farla a tuo marito o a tua moglie. Non voglio essere causa di litigi oggi. Falla un tuo fratello, una tua sorella, e forse il tuo fratello o la tua sorella, ahimè, ti dirà che hai i difetti che tua moglie ti dice continuamente che hai, o tuo marito ti dice che hai. E allora che fare? Puoi cambiare, puoi essere modellato, puoi confessare, puoi chiedere perdono e puoi vivere questa condizione dove non sei subito offendibile, suscettibile, ma piuttosto in una condizione di crescita e cambiamento, ascoltando, accogliendo e cambiando nella direzione che Dio ha per ciascuno di noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Siete grati della Chiesa di cui facciamo parte? Io tanto, è una benedizione. è una benedizione. È come un matrimonio, è meraviglioso. E al tempo stesso anche, come dire, c'è mia moglie che mi ascolta, per questo devo studiare bene la parola. Impegnativo nel bel senso del termine. Sfidante. Sfidante, ci aiuta Sara. Sfidante, impegnativo. Lo dici della Chiesa? Vito l'ha sgomitato. Sfidante, impegnativo. Però non è quello che proprio vogliamo, desideriamo, che lo Spirito Santo mette dentro di noi come desiderio. Cambiare. Cambiare. Che privilegio. Che privilegio. Il detto falso, bugiardo, che il diavolo propina costantemente, che se sei nato quadrato non puoi morire tondo. L'annuncio dell'Evangelo, la buona notizia di Cristo Gesù è che Lui trasforma le vite. Non le modifica parzialmente. Le risuscita. Le risuscita come un morto che prende vita. Perché dovremmo essere ancora attratti dalla condizione di morti? Lasciamoci attrarre dalla condizione di vivi. Perché siamo vivi, risorti in Cristo Gesù. E abbiamo oggi il privilegio di poter essere trasformati da Lui. Se è questo il tuo desiderio questa mattina, chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani, che bel segno di arresa è alzare le mani al cielo, consapevoli che Cristo è proprio qui, ma è anche l'Onnipotente, il Dio dei cieli, il Dio elevato, onnipotente, il Dio altissimo. E a te stendiamo le nostre braccia, Signore, per dire: vieni in soccorso alla nostra condizione, noi vogliamo cambiare, e crea una chiesa, una comunità ancor più propensa a fare questo, a vivere questo in una maniera sana. Perdonaci per tutte le cose che facciamo erroneamente, modifica quello che può essere il modo di agire, di parlare, di intervenire, che è carnale, terreno, umano, giudizioso, faradisiaco, ed è legalista. Signore Gesù, io prego che tu possa riempirci del tuo Spirito Santo e renderci mezzo per la crescita, l'elevazione del nostro fratello, della nostra sorella. Perché come il nostro fratello e la nostra sorella ha bisogno di elevarsi ed essere più santo, anche noi, anche io, anche tutti noi abbiamo bisogno di essere elevati. Abbiamo bisogno di essere esortati, incitati, corretti. Facci giungere queste correzioni e rendici capaci di assimilarle. Metti in noi il filtro giusto che ci porta a trasformazione, non a rigidità, a irrigidirci per ogni parola che ci viene detta. Nel nome di Gesù io prego questo. E ti ringrazio per questa Chiesa che benedico nel tuo santo nome. Vogliamo andare di gloria in gloria e vogliamo assomigliare di più a te, Cristo Gesù. Sia fatta la tua volontà. Alleluia, amen. Vogliamo adorare il Signore, stare alla sua presenza in preghiera, cercarlo ancora, confessare a Lui i nostri peccati, le nostre mancanze e uscire da questo incontro con una motivazione e un desiderio che si trasforma in obiettivo e preghiera quotidiana di essere più simili al nostro Salvatore Signore Gesù.